falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Oggi raccontiamo una storia particolare di un uomo sempre in bilico tra il rock e lo swing, in bilico tra il silenzio e il gossip per un flirt con Brigitte Bardot, o in bilico tra Francia e Italia, e soprattutto in bilico tra musica d'autore e canzoni divertenti. È stata una nostra ascoltatrice a segnalarci questa persona e questa storia. Noi la ringraziamo e sentiamo chi è direttamente dalla sua voce. Buongiorno Ruggeri, che bel lavoro che fate, beati voi. Grazie. Allora io le chiedevo, sì, se poteva raccontare Nino Ferrer. Nino Ferrer, perché? Quando ero giovane che studiavo lingue, allora, praticamente non dico che ho imparato francese con le canzoni di Nino Ferrer, però questo cantante così... Questo personaggio era più, sì, di un cantante. Era un personaggio, però qui in Italia lo rendevano molto tipo clown, frivolo, tutte le trasmissioni che ha fatto con... Sì, Baudo, con... Sì, con Pippo Baudo, sì, Donna Rosa, sì. Agata, quelle storie lì, no? Però in realtà, secondo me, lui, quando aveva cominciato a cantare, faceva delle piccole canzoni un po' surreali, eccetera, che ricordavano molto, magari, Prévert, no? Esatto. Era il dramma della sua vita, quello di essere diventato famoso attraverso un modo di proporsi che non gli piaceva fino in fondo. Esattamente. Certo, la sua trasmissione, il Falco e il Gabbiano, questo qua si è spezzato l'ala, visto? Si è spezzato l'ala, mi piace questa, potrebbe essere l'inizio della trasmissione. Bene, grazie, bravo. Mercedes. Eccoci quindi a parlare di Agostino Arturo Maria Ferrari, che nasce il giorno di Ferragosto del 34 a Genova. E poco dopo, a causa del lavoro del padre, la sua famiglia si trasferisce addirittura in Nuova Caledonia, nell'Oceano Pacifico, e lui ha solo 5 anni quando però scoppia la guerra. Così i genitori decidono di tornare in Liguria. È a Genova che Agostino, che in realtà tutti chiamano Nino, frequenta la scuola dei gesuiti, rimane fino a 13 anni, che è l'anno del trasloco definitivo di tutta la famiglia a Parigi. Qui arriva fino alla laurea in lettere e filosofia alla prestigiosissima Sorbona. Nino è un ragazzo curioso, si interessa di etnologia, archeologia, religioni, scienze sociali, ma è interessato anche al disegno, alla pittura. Non smetterà mai di prendere in mano matite e pennelli. Recita per 10 anni come attore nella compagnia teatrale dell'Università della Sorbona, ma ama anche la musica e ama il banjo, suona il contrabbasso. Trascorre le sue serate nei locali parigini degli anni 50, dove si ascolta molto jazz, e si esibisce come bassista per Richard Bennett, Bill Coleman, Nancy Holloway, girando con il suo complesso tutti i locali notturni della capitale francese. Incide una decina di 45 giri per una piccola etichetta. Ormai Agostino Ferrari si chiama Nino Ferrer, fonda un suo gruppo, incide un 33 giri, dal 62 intraprende addirittura la via del cinema, appare in alcuni film francesi, film girati in Francia, imperniati sulle avventure dell'agente segreto Jeff Gordon. I suoi ruoli più importanti nel cinema arriveranno più tardi: Un été sauvage, l'età selvaggia di Marcel Camus nel 70, interpreta Serge, Serge, 12 anni dopo, nell'82, in persona al medico Steven Julien nel film L'Itaine, diretto da Jean-Pierre Mocky, e un film mai distribuito in Italia. Insomma, è un personaggio incredibilmente versatile. In quegli anni lui canta Mirsa, che è un rhythm and blues divertente, Le Téléphone, il telefono nella versione italiana, un altro brano di grande presa come Le Cornichon, ovvero i cetriolini sott'aceto, che in Italia è tutt'oggi sigla del programma televisivo Le Iene. Insomma, Nino Ferrer è un trentenne che ha davanti a sé tutte le porte dello spettacolo aperte, però è in bilico, come abbiamo detto all'inizio, non sa bene cosa vuole fare. Poi arriva il 64 ed è l'anno di uno dei suoi tanti colpi d'ala. Inizia a fornire i suoi brani a diversi artisti francesi. Lui sa che vuole lavorare nel mondo dello spettacolo, ma ancora non sa con quale professione. Lo scopre solo quando in Italia inizia a avere un grande successo una sua canzone, che invece in Francia non lascia alcuna traccia. Je suis seul, étonné. Mes jours sont tellement longs et vides et obsédants. Je suis seul. La nuit vient et je me souviens d'un an d'amour. Mogol e Testa traducono questo brano, che si chiama Set Irreparable, scusate il mio francese tremendo, e lo traducono in Un anno d'amore. Arriva un successo tramite la versione cantata da Mina con gli arrangiamenti di Augusto Martelli, Un anno d'amore. Dunque questa canzone fa: si può finire qui, ma tu davvero puoi buttare via così un anno d'amore. Se adesso te ne vai, da domani saprai un giorno quanto è lungo e vuoto senza te. E di notte, e di notte, per non sentirti solo ricorderai. Questa versione di Un anno d'amore esce su un 45 giri che dal lato B offre un altro pezzo di storia della nostra musica, la mitica E se domani, quindi un classico della discografia di Mina. Un anno d'amore è uno dei 45 giri più venduti della carriera di Mina, rimane 16 settimane al primo posto della Hit Parade con 7 mesi di permanenza totale in classifica, è il quinto posto tra i singoli più venduti del 65, vende in Giappone, in Turchia, e la Tigre di Cremona ne prepara versioni in lingua per conquistare i mercati di tutti quei paesi. All'origine di quell'incredibile successo c'è un discografico che ha un fiuto straordinario, è il mitico Tonino Ansoldi, che durante un suo soggiorno in Libano ascolta la canzone di Ferrer in un locale dove proprio Nino si sta esibendo, ne rimane colpito, da lì parte l'ascesa dell'artista italo-francese. Il brano verrà inserito per esempio nella colonna sonora del film The Dreamers di Bertolucci, verrà cantato da Luz Casal in un'altra pellicola di Pedro Almodovar, Tacchi a Spillo, insomma Tonino Ansoldi, come spesso è accaduto nella sua vita, va a beccare sul sicuro. E capirai in un solo momento cosa vuol dire un anno d'amore, e capirai in un solo momento. Falco e il Gabbiano. Siamo al 1966, il nostro Nino Ferrer scrive una canzone con Franco Califano, È colpa tua se me ne andrò, però la vera canzone, riuscitissima anche nella sua traduzione francese, si chiama in un altro modo, La pelle nera, dove il cantante chiede a Wilson Pickett e James Brown di dare ispirazione e sostanza soul ai brani di un bianco europeo dai capelli biondi che vorrebbe essere tutt'altro, vorrebbe avere la pelle nera. E vorrei cantarvi una canzone bella. Vi canto quella che mi sta più a cuore, La pelle nera. Però ho bisogno che mi diate una mano, d'accordo? Battete le mani con me. Siamo nel 1967, lui ha già avuto successo in Francia con altri singoli perché è riuscito a fare valere il suo talento, la sua capacità comunicativa e scrive anche motivetti orecchiabili anche su temi delicati come la guerra e come il razzismo. E la pelle nera, insomma, è una frase impegnativa, dire in quegli anni vorrei la pelle nera. E comunque è una canzone che rimane nel nostro immaginario collettivo, rivoluzionaria per testo e musica, un'icona, una hit degli anni 60 che rimane impressa nella carriera di Nino Ferrer. Proprio Manu Dibango, che è un camerunese che suona come bassista insieme a Ferrer nella seconda metà degli anni 60, dirà così: Nino amava i neri ma non amava affatto i bianchi. Aveva un'ottima orchestra al suo servizio e lui era molto bravo a cantare, era uno dei migliori cantanti che la Francia abbia mai avuto. Un intellettuale, un erudito con un carattere orribile che poteva essere insopportabile. Era un bravo musicista che amava la musica ma non amava se stesso. Adorava l'animalità dei neri americani e aveva questa sua contraddizione. I suoi eroi in musica erano tutti neri. E intanto la televisione si accorge di lui. Due trasmissioni sono strettamente legate a brani che lui interpreta. La prima è il programma della domenica pomeriggio, Sette Voci di Pippo Baudo, che chiama Nino a fare la sigla di apertura. Il suo nome è Donna Rosa, cara, bella, sorridente, deliziosa, e vuole me. Può sembrare capricciosa, Donna Rosa, ma non c'è da farci caso, lei vuole me. Sono sincero, confesserò, non ce la faccio a dirle di no. Sempre in bilico, scrive canzoni e poi arriva al successo in Italia con una canzone scritta da Pippo Baudo, da Luciano Fineschi. Però è un grande successo, piacerà a grandi e bambini. Arriva anche un musicarello, no? I film presi dalle canzoni di successo di quegli anni, un musicarello del 69 che si chiama Il suo nome è Donna Rosa. Proprio su quel set, tra l'altro, si incontrano e si innamorano i protagonisti Albano e Romina Power. Il film incasserà benissimo. Je ne touche pas à mon salaire, je vis comme un misérable, j'ai des trous dans mes chaussettes et les talons éculés. J'épargne et j'économise pour pouvoir te contenter, et toi tu fais l'infidèle avec le patron d'un café. Agatha, tu me ruines. Da quel momento Nino Ferrer si vede anche in altre trasmissioni TV, ma il varietà che lo fa arrivare all'apice della sua carriera si chiama Io Agatha e tu, nella prima serata del sabato con Raffaella Carrà e Nino Taranto. Tra l'altro lui ottiene un bel successo con la canzone che stiamo sentendo in sottofondo, che è Agata, che venne portata a successo anni prima proprio da Nino Taranto. Però c'è anche la sigla di chiusura di questo programma, che è un testo semplice ma ficcante, si chiama Viva la Campagna. Proprio in questo periodo anche Renzo Arbore frequenta Nino Ferrer e di lui ricorda quanto fosse rimasto un ragazzo molto carino, squisito, che ci teneva molto a rimanere legato alle sue origini italiane. Qualche tempo più tardi, agli inizi degli anni 70, Renzo Arbore incontrerà nuovamente Nino Ferrer a Saint-Tropez e lo vedrà dimesso, smarrito, meno scanzonato. Probabilmente erano le premesse di quello che poi sarebbe successo, però in quel momento né Arbore né i suoi colleghi possono immaginare l'epilogo di questa storia. Restiamo al 1970. La prima trasmissione più vista di quell'anno sono i Mondiali del Messico, con la famosa Italia-Germania, poi 28 milioni per la finale dell'Italia contro il Brasile di Pelé. Ma tra i programmi più visti in assoluto c'è anche Io, Agata e Tu, con 19 milioni e mezzo di telespettatori, e tutti cantano la sigla Viva la Campagna. La gente viene va, ma non sorride più, c'ha l'orologio che va, che va, che va. Felicità, raccontando la storia in bilico tra canzone seria e canzone divertente, tra l'Italia e la Francia, tra il gossip e la riservatezza, insomma la vita in bilico di Nino Ferrer. Siamo arrivati al momento in cui lui in Italia ottiene grandi successi, però con canzoni assolutamente lontane dal suo modo di intendere la musica. Lui era un cantante che voleva cantare sempre cose tipo Vorrei la pelle nera, e invece arriva al successo con Donna Rosa, Viva la Campagna, Agata, cioè con canzoni molto divertenti e molto scanzonate. Bene, arriva comunque al successo e quindi gli si spalancano le porte dell'appuntamento con il coronamento dei successi, soprattutto in quegli anni, il Festival di Sanremo. Ci va nel 68, non ha grande successo, mentre c'è per esempio Armstrong con Mi va di cantare. Lui ha un ruolo da comprimario, canta Il Re d'Inghilterra in coppia con Pilade, torna nel 70 con Re di Cuori in coppia con Caterina Caselli, però vincerà Chi non lavora non fa l'amore di Adriano Celentano. Ecco, insieme, durante il varietà del sabato in prima serata, Nino che conduce e Caterina Caselli sua ospite poco dopo la loro partecipazione al festival. È stato un festival magnifico. Io poi ho avuto una fortuna, non ti dico, eccezionale. La domenica mattina sono andato a caccia con la principessa Fürstenberg. Non mi dire. Sì, è andato piuttosto bene anche. Io ho preso un mucchio di quaglie, di beccacce, di allodole, di merli, ecco. Di insomma. Sì. Tanta... E lei? Beh, lei piuttosto bene pure, un sacco di papere come al solito. Ma senti, a proposito di lavoro, questo Re di Cuori, visto che l'abbiamo fatto in due a Sanremo, cosa facciamo? Lo fai tu o lo faccio io? Veramente io non lo so, potremmo fare la metà, non so. Senti, questo è molto carino, però io penso che tu sei una signora, poi sei la mia ospite. Sì, buon appetito. Perciò a te, Caterina! Mi senti Re di Cuori e prendi un cuore quando vuoi, lo tieni un po' vicino a te e poi lo lasci come hai fatto a me. Ma quando una ragazza sempre sola se ne sta, un bacio sembra la felicità, l'amore brucia. Ed ecco oggi Caterina Caselli come ricorda la figura di Nino Ferrer. Beh, insomma, lui è la cultura francese, nel senso, cioè una parte importante della cultura francese, è un grande artista, un interprete, un autore meraviglioso, credo che sia stato di ispirazione per tanti tanti autori e compositori italiani, assolutamente un personaggio di grande charme, di grande come dire, fascino, ecco. Io lo subivo abbastanza in quanto donna anche, però veramente notevole, cioè grande, grande qualità, ma poi tantissime anche artisti italiani, Patti Pravo ha cantato cose sue, io non ho mai cantato, diciamo, suoi brani. L'anno dopo Nino Ferrari ancora a Sanremo, anche stavolta senza grande successo, la canzone si chiamava Amsterdam. Evidentemente il suo destino è di arrivare alle classifiche discografiche sempre con canzoni ironiche tipo La palla di pelle di pollo. C'era una volta in un paesello un certo gallo di nome Apollo, che per figlio aveva un pollo che si chiamava Pelle, un polletto capellone con la cresta pentolone. Non voleva lavorare, solo giocare. Beh, io penso che avere grande successo con canzoni che non ti rappresentano deve essere quasi peggio che non avere successo. Deve essere terribile. Lui fa sorridere il pubblico, ha sempre il suo dispiacere dentro, intanto quello di non essere nero. E poi lui comincia a non sentirsi più a suo agio. Gira su automobili dai colori sgargianti, sono la sua passione insieme alle pipe, però si veste di nero, è in bilico anche qua. E non si sente più a suo agio né in Italia né in Francia. Vive assieme a decine di cani e gatti, riempie le pagine delle riviste di gossip perché si parla di una sua storia con Brigitte Bardot, e scrive anche una canzone per lei, però Brigitte Bardot non la canterà mai. Nel settembre del 71 Nino Ferrer lascia di nuovo l'Italia per Parigi, ha portato un recital al Teatro Sistina di Roma, però non è andata benissimo, lui è sfiduciato, intanto il pubblico inizia a volere volti nuovi, lui si allontana dal show business, comincia a dipingere, poi incide intanto negli anni successivi una decina di 33 giri, per cui fa il produttore, il cantante, il musicista, torna alle sue basi jazzistiche, sforna altri due successi oltre Alpe, uno si chiama Le Sud del 75 e l'altro La Carmencita dell'80. Nel 78 sposa la sua compagna Jacqueline Canu e ha due figli, Pierre e Arthur, passa al rock e a un certo punto scrive una sorta di inno all'uso della cannabis dal titolo molto chiaro che piacerà a molti giovani. La canzone si chiama Canapa Indiana e di certo, insomma, è, come dire, un cambio molto repentino di immagine sonora e verbale. Giornali e rumori, telefono e radio, poliestere e nylon, non pensarci più. Canapa indiana, hashish, marijuana, morfina, kiff, cocaina, metedrina, stick, occhio, caca. Acido lisergico di tilamide. L'album è del 70, si chiama Rats and Rolls, lui canta con i Rocchetti, che sono una band mitica degli anni 60 che proseguirà la sua carriera, insomma ce n'è una dinastia di musicisti, uno ha suonato con me nella mia band, è quello che adesso suona con Vasco Rossi, Alberto Rocchetti. Comunque siamo con Nino Ferrer negli anni 80. Lui comincia a ritirarsi, torna sulla scena, insomma disillusioni, distacchi, pessimismo. Le frasi che dice nelle poche interviste lasciano veramente pochi dubbi. Io mi sentivo un cantautore, un artista completo, ma i discografici mi trattavano come una macchietta, un interprete di canzonette stupide, un cantante da varietà. Mi sentivo in gabbia. Fare dischi per me è un incubo che mi pesa sempre di più. Sono tentato dal suicidio, ma non l'ho mai fatto. Non ho una natura suicida. Amo troppo la vita. Arriva il momento in cui Nino si ritira nelle campagne sperdute tra Bordeaux e Tolosa, dipinge quadri alla Dalì, inseguendo i suoi piccoli e grandi demoni, ha una magione in mezzo al verde, dove vive anche l'anziana madre, a cui è molto legato. A 86 anni sua madre muore nel 98 e lui viene travolto da un'onda di dolore da cui non riesce a salvarsi. Due giorni prima del suo 64esimo compleanno, il 13 agosto 1998, si spara al petto con il fucile. Accanto al suo corpo, nell'abitacolo della sua auto, verranno trovate molte lettere. C'è anche uno scritto riservato al mondo dello show business che la famiglia non renderà mai pubblico, ma io ne posso immaginare chiaramente il contenuto. Durante una delle sue ultime interviste, Nino disse che già alla fine degli anni 60 aveva capito molte cose proprio sul mondo della musica. Nel 68 avevo davvero raggiunto la fama mondiale, un successo incredibile, e successero molte cose interessanti in quel periodo. Tra l'altro ricordo il passaggio tra il 68 e il 72, perché finalmente conobbi la differenza tra la vera musica e quella che non meritava. Fu davvero una svolta molto importante per me. E qui volevo chiedere un parere a Enzo Gentile, che è un amico, un giornalista, uno storico della musica, ha scritto tanti libri di musica, tra cui Lontani dagli occhi, che è vita, sorte e miracoli di artisti esemplari. E tu in questo libro ti sei occupato anche di Nino Ferrer. Ecco, secondo te, nel famoso biglietto che lui lasciò tra i tanti, quello dedicato allo show business, cosa poteva esserci scritto? Beh, sicuramente c'era quella disaffezione, quel disincanto, quella critica neanche troppo sotterranea allo show business, che è tanto materiale allo studio degli storici della musica. Il business è una cosa che strega, che ammaglia, però stritola. E Nino Ferrer aveva vissuto sulla sua pelle, come gli altri personaggi che racconto nel libro, perché il legame non è tanto di tipo linguistico, ma è relativo a un periodo, gli anni 60 soprattutto, che poi sfociano in quei 70 che per tutti i cinque artisti che racconto, tranne Buscaglione che era già morto, segnalano un po' questa sfida persa, questa scommessa drammaticamente a livello di sconfitta. Dicevo, Nino Ferrer ha conosciuto da vicino i trionfi in Italia soprattutto, ma anche in Francia, dove tuttora è estremamente amato e popolare. Ha conosciuto quindi il trionfo, la luce, la capacità di essere una stella per poi essere inghiottito dai buchi neri di un'industria, di una disaffezione anche degli addetti ai lavori, senza che ci fosse un demerito particolare. Ricordo che Nino Ferrer, c'erano anni in cui girava con la Rolls Royce a Roma, sì. Era fidanzato con Brigitte Bardot, frequentava le prime serate televisive quando c'era solo una o due reti, quindi sì, sì, era una superstar moltissimo. Però lui è arrivato al successo con delle canzoni che non lo rappresentavano, o meglio, esatto, rappresentavano una parte di lui che a lui interessava poco, quindi certo. Agata, Donna Rosa. Quanto è stato colpevole lui per non essere riuscito, a, come diremmo noi, a dare il colpo d'ala, cioè per spostare l'attenzione del mondo sulle sue canzoni più di peso, e quanto si è, voglio dire, la Rolls bianca poi l'ha pagata cara, no? L'ha pagata molto cara, è stato sicuramente, come altri in tanti periodi, accondiscendente rispetto a un mondo, a un universo. Quando tu hai manager adoranti, quando vedi sicuramente una folla che ti aspetta e ti plaude, gli share televisivi crescono. Il conto in banca che... pure. Pensi che in qualche modo questo possa durare e tu possa scegliere, invece a quel punto è tardi, non scegli più. Nino Ferrer ha fatto anche dischi successivi che non erano peggio di quelli, ma non avevano più la possibilità di parlare a un pubblico che si era spostato nel frattempo, i direttori delle televisioni, i giornalisti, e su questo mi ci metto dentro perché è una categoria particolarmente disattenta e volubile, avevano cominciato a guardare altrove e manco lo ascoltavano più. aveva provato a scrivere canzoni ecologiste contro il militarismo, ci si era schierato, ma era troppo tardi. Era troppo tardi e soprattutto lo si ricordava per quell'immagine un po' guascona, dove non c'era spazio invece per le sfumature. Grazie Enzo. Grazie, un abbraccio. Ciao. A tutti. Ciao. Dopo la tragica morte di Nino Ferrere, il quotidiano L'Unità gli dedica un'intera pagina. Il giornalista Enrico Menduni lo ricorderà così. Nino è stato il testimone di un'epoca in cui disco, automobile, televisione e musica leggera diventavano anche in Italia esperienze di massa, altrettanti corollari di un benessere ancora acerbo. Nino Ferrer, un personaggio in bilico che ha dato il colpo d'ala, ne ha dati parecchi, ma sempre con le ali sbagliate, non con quelle che voleva lui, non con le canzoni che in qualche modo voleva che lo rappresentassero, perché il successo a volte è una stato che ti lusinga molto e però poi ti fa capire quanto, se non sei te stesso, sei lontano comunque dalla strada della felicità. Noi abbiamo ancora tante storie da raccontare, oltre ad aspettare anche le vostre segnalazioni e i vostri consigli al nostro sito e alle pagine social del Falco il Gabbiano, di Radio 24, mie, insomma qualsiasi cosa. Intanto ringrazio Luigi Speciale e Anita Panizza Riotti, che mi sono sempre vicini in questa avventura. Vi abbraccio, a lunedì. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Del Rosso.